Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Pronto? Antò! Chi è? Chi parla? David Parenzo! Oh, ciao David, come ma stai? L'immortaccia, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando vuoi. Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, mi sto per te, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. No, mi sto vestito, prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Allora fateli cazzi tu, no, vaffanculo. Ma io non lo so. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oggi partono gli ultimi 5 giorni della zanzara. Cruciani, Parenzo, se proprio non volete riaprire questo baraccone, regalateci 5 giorni di adrenalina pura, un crescendo rossiniano, 5 pallottole di adrenalina. Dagli, e Barisoni per cortesia, levate 5 minuti prima dai coglioni perché qui bisogna chiudere in bellezza. Dagli tutta. Beh, ma se Parenzo non vuole più fare la zanzara, ma facciamo fuori Parenzo e riprendiamoci il grande Gottardone. Violenza verbale, insulti, aggressioni continue. Comunque anche lui ci sta dentro. Non è che perché non vuole Parenzo mo si blocca tutto. Crucià, datti una mossa, noi vogliamo parlare di figa, di puttane, di piedi, di tutto, inculate, meraviglioso, meraviglioso. Poi vabbè, magari facciamo mandare qualche messaggino audio registrato a Parenzo con qualche puttanata di quelle che fa, tipo l'imitazione di Freccero, che ormai è più interessante e articolata del Freccero lui stesso, della realtà. Allora facciamo fuori Parenzo, mettiamo Gottardo e ciao, e si ricomincia a settembre, precisi. Bravo. Parenzo sarà contento della fine della zanzara, ma sappi, caro Parenzo, che è grazie al nostro odio nei tuoi confronti che ti abbiamo dato il permesso di esistere. E ora che tutto sta per finire, hai il nostro permesso di riscomparire nel nulla. È meraviglioso, meraviglioso. Forse dovremmo avere in video collegamento il professor Meluzzi. David, ci sei? Ci sei, David, sì o no? Allora, collegato da uno. Collegato. Uno. Sempre due, quella stanzetta due. Del cazzo. Non ti sei rotti i coglioni due, di stare in quella stanzetta due, della due, minchia? Rinchiuso lì, no, due ore al giorno, tre ore al giorno. Intanto non dire così. Mamma no, mi sono affezionato alle pareti, agli odori, al posto, ai colori e alla bellezza. Ecco. Applausi a David Parenzo in collegamento da Roma, eccoci qui. Ultima settimana, anche qui Monterosa 91, 20-149 Milano. Allora ragazzi, tu hai una moglie, una fidanzata, una compagna, che cazzo sì, ne moglie, so, una, no, tu hai una moglie, una fidanzata. No, tu, ho dovuto sospendere generale, il matrimonio per colpa sì, delle minacce, degli arrivi di personaggi indesiderati, quindi ho dovuto sospendere lo sponsalia, come si direbbe. No, no, ma dicevo in generale, tu hai una moglie, una fidanzata, non tu Parenzo, tu diciamo cittadino, hai una moglie. Un tu generico. Una moglie, una fidanzata, eccetera, e vai a puttane. Può succedere naturalmente, no? Puttane. No, sì, può succedere. No. No, sì, può succedere. No. Succede in tutto il mondo, tu dici di no. No. In realtà succede in tutto il mondo. Sì, no. Sì. Lo vedi che poi ci ripensi. Ma chi è che siete dei fake? Usate la mia voce per contraffare quello che dico. Allora si scopre che questa prostituta con cui vai ha il Covid. Si è presa il Covid. Che cosa fai? È un dramma, ti consegni? Beh. ti consegni. Beh, certo. Vai dal sindaco. Ma intanto sono sbagliate le premesse. Non vado dalla prostituta, ci sono proprio, no, sbagliate, tu, le premesse. Tu generico, tu cittadino. Non ho capito, ma sono sbagliate, posto, le premesse. Ma capito? Succede, no? Vai a puttane. Si scopre poi che questa puttana ha il COVID. Che cosa fai? Vai dal sindaco, ti confessi, vai dalla ASL, ti arrendi, lo dici a tua moglie? No! Perché se stai bene non lo fai. Cioè, se dici sono andato a escort, vai dal sindaco, vai dal capo della, vai dalla tua ASL, dal tuo medico a fare i test, c'è il rischio che poi lei lo sappia. Che succede? Che una peruviana in giro per l'Italia, in particolare a Modi, che è stata 15 giorni in Sicilia, si è scopata 30 persone. Queste 30 persone adesso saranno sicuramente terrorizzate, perché questa qua si è ammalata poi tornando indietro, facendo il giro dell'Italia, si è ammalata in Umbria. Ora tu dici si devono confessare questi qua, cioè devono consegnarsi, devono confessare. Bisogna mettere anche le foto in giro per la città, dei manifesti, bisognerebbe fare. Oppure le foto, chiunque sia entrato in contatto. Segnalettiche, segnalettiche, foto segnalettiche. Ma sei una vergogna, segnale, dai, sei, no, una vergogna. Caccia al no. Che cosa? Caccia al puttaniere, no? Come caccia al puttaniere? Caccia al puttaniere. Cioè tutti quelli che sono entrati in contatto con la prostituta andrebbero fotografati e il paese di Modica andrebbe tappezzato delle foto di questi signori che sono andati con la prostituta. Io farei un metodo così civile, normale, sì, banale. Un metodo civile, sì, come direbbe Sallusti, sì, ma civilissimo, sì. Civilissimo. No, sì, mi pare normale, no? Puttaniere infetti, di... come titolate domani? Chi va da puttaniere infetti, seminano il panico nel paese di Modica. Naturalmente la proposta del giornale è quella di mettere tutte le foto con i numeri di telefono personali di questi puttanieri di merda. Scusi, però, Sallusti, c'è un problema di privacy, però. Ma qual è privacy? Ancora con la privacy, siete i comunisti, ma cosa c'entra la privacy? È proprio una roba inutile, non c'entra allora niente. Intanto il vice ministro, non so chi è, Castelli, allora questa frase è molto controversa, alcuni hanno detto che è un attacco ai ristoratori, altri dicono no, voleva dire che i ristoratori si devono riconvertire, se non ci vanno più i clienti devono pensare a un'altra attività. Diciamo subito una cosa, ha detto una cazzata, tutti gli ristoratori italiani sono incazzati, ma non perché abbiamo interpretato male. Perché in realtà è che uno non è che può dire no, vabbè, se non vanno più i clienti questi si devono reinventare. Lo sappiamo da soli che uno senza clienti chiude e dunque deve fare un altro lavoro. Mi pare chiaro, no? Cioè non è che ci voleva la Castelli per dircelo. Eppure questa qua ha fatto arrabbiare tutti. Senti. Se una persona decide di non andare più a sedersi al ristorante, allora? Bisogna aiutare l'imprenditore a fare un'altra magari attività, a non perdere l'occupazione, e va sostenuto anche nella sua creatività, che magari ha visto che c'è un nuovo business che può affrontare. Allora, cara ministra Castelli, è evidente che se uno ha il ristorante vuoto, prima o poi chiuderà e magari si mette a fare, che ne so, il pittore, si mette a fare il venditore ambulante, si mette a fare il venditore di souvenir, si mette a fare il bibitaro, apre un bar, non lo so, lo sanno da soli i ristoratori, non è che c'è bisogno del suo consiglio per dire inventatevi qualcos'altro, lo Stato ti aiuta a inventarti, no, lo fanno da soli. Voi probabilmente non gli avete dato i soldi necessari per sopravvivere in questo periodo. Sono incazzati molti, le casse integrazioni non ci sono ancora, non sono state pagate ma del certo, tutto. Dai, su questo è il punto. Lei non si deve occupare di quello che faranno dopo i ristoratori, si deve occupare di quello che hanno adesso. Punto e basta, dai. Porro, dai, porro. Adesso io continuo con la pippardella su porro. Esce porro, esce porro. Vabbè. Porro era liberale una volta, porro. Gli ambulanti non trovano più lavoro, dovrebbero fare un'altra attività. Gli albergatori non trovano lavoro, dovrebbero fare un'altra attività. I baristi non trovano lavoro, dovrebbero fare un'altra attività. Cioè, tutti dovrebbero, secondo la signora Castelli, fare un'altra attività. Non lei! Non lei che dovrebbe fare un'altra cazzo di attività. Cioè, togliersi dalle scatole e non essere pagati dai nostri contribuenti. Toc toc! Castelli, prima che dei ristoratori, sei tu che sei incapace a non trovare lavoro, a fare bene il tuo lavoro, cioè a far sì che l'economia italiana sia un po' più decente. Invece questa cosa non c'è. C'è la chiusura del Movimento 5 Stelle che dice l'avete travisata. No, non è stata travisata, è la mentalità di gente non incompetente, perché io sono incompetente a fare il ministro dell'economia, la Castelli è incompetente a fare... ma arrogante, cazzo! Quando c'è una disoccupazione che cresce di milioni di persone, questa si permette di dire trovassero un'altra attività e dice ma quale cazzo è l'altra attività? Ma non gli viene in mente alla Castelli che non possono fare tutti i vice ministri dell'economia? Il problema è psicologico. Se un incapace diventa ministro, diventa politico, diventa super pagato, pensa che tutti gli incapaci possono fare la stessa cosa. Purtroppo non è così. Toc toc! Vabbè, comunque su questo c'ha ragione, non puoi dire che c'ha torto su questo, come attacca comunque, come lotta, no, Porro, come no, lotta. No, su c'ha questo, ragione, su questo devi dire che c'ha ragione, tolti, dai. Tolti i toni, ma che io avrei usato diversi. Ma tolti tu pacati, tranquillo, sempre questo toc toc. Ma scusi, cos'è? Lei non va toc, a Quarta toc. Repubblica, lei non va ospite da Porro, scusi, Prodi. No, lei... gente che urla, gente che urla, toc toc, no, invece con calma, in silenzio, facciamo l'accordo, l'accordo piano piano, mettendo, mettendo lei la sa quello che dicevano dei di Fracassi, la vecchia legge della diplomazia, eh? La legge di Fracassi, no, so, diceva so, sempre Fracassi sempre in culo ai Paesi Bassi, ma in silenzio, vecchio ambasciatore della Prima Repubblica che aveva dato ordine ai nostri ambasciatori italiani. Perché non va alla Zanzara? Fracassi, perché non va alla Zanzara ospite, Prodi? Urla, grida, è gente che squirt brutto. Invece in silenzio facciamo le nomine. La radio non si può tutto. Fare in silenzio, però. Bellissimo, senza nessuno che urla, due ore in silenzio, tutto in inglese, dall'Europa, le dirette dalla Commissione Europea, gente che fare. Non capisce niente in tutte le lingue, 27 lingue del mondo. Nessuno ascolta più. Al posto della Zanzara, ecco, nessuno ascolta niente, noi in silenzio facciamo le nomine. La proposta che ha fatto Confindustria è questa: togliere la Zanzara e trasmettere tutte le dirette del Parlamento Europeo, ma in lingua originale, in silenzio, 27 lingue. 27 lingue diverse. Shhh, in silenzio, con calma. Vabbè, grazie. Con calma. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare. E con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Che la percentuale delle persone per bene sarà 0,001. Ah, senti questa, senti. Quelli che senti. Vengono qua, che sono tutti giovanotti, spacciano, vengono per spacciare, droga, sesso, ammazzano. Ma chi guarda è? Cosa c'è qua. Sì, anche i nostri ammazzano le mogli, ma è un'altra cosa. Loro lo devono fare. Loro è un'altra cosa, non c'entra niente. Ma chi è sta i nostri perché danno fuori di matto e sono soprattutto terone. Ok, ma questi non hanno regole, non le può inculcare, guarda cosa c'è qua. Ma non lo vede, ma mia figlia e tuo figlio non vede cosa c'è qua. Perché sono tutti in Italia e l'Europa non li vuole. Parliamone. Cazzo, ma no. Nervoso, guarda che. Madonna santa! Silenzio la vecchia! La signora Anna da Tradate, la numero uno assoluta. Parenzo, io non capisco perché non hai fatto presente venerdì sera alle signore sardine, per esempio la Jasmine Cristalle. È vero che hai combattuto, ho visto che hai combattuto un po'. Di fronte alle supercazzole, anche tu non ce l'hai fatta più. Anche tu di fronte alle supercazzole. Ti faccio riascolto, poi dici che sono fissato io. Qualche volta ti fanno due palle così con queste supercazzole. E parlate chiaro. No, ma dai, sì, su. Che dicevano. Senti, la politica di prossimità, ma che cazzo vuol dire? No, ma dai, a me lo su, dici, dai, a me gliel'ho detto su, io. E gliel'hai detto, lo so, finalmente gliel'hai detto. Certo, non hai combattuto con Santuzzo, non hai combattuto come io ti avevo suggerito di fronte a San Minchia, come si chiama, dai, Cristallo. La politica di prossimità, che vuol dire? Che significa? Che vuol dire che è possibile andare tra la gente, portare. Noi abbiamo fatto questo alla fine, noi abbiamo portato in piazza i corpi, abbiamo portato in piazza le persone. Ma che allora cazzo c'è capitata una corpi? Pandemia, le sardine che nascevano per stare strette in una scatoletta si sono confrontate con l'epoca del distanziamento sociale. Ma che vuol torniamo dire? Tra le persone. Ma che vuol dire? Ma è chiaro che se vai a fare la manifestazione la gente sta vicina. Abbiamo riportato in piazza le persone, le persone una accanto alla. Ma che roba è? Ma perché non ti sei ribellato di fronte a quelli? Gliel'hai detto un po' zanzarescamente. Cosa vuoi dire? Gliel'hai detto alla zanzara? Detto, ma che dai, vuol dire? Che vuol dire la politica di prossimità? Giustamente gliel'hai detto. Però dovevi insistere, incalzare, farla andare via, farla scappare. Questo è, questo la gente vuole. Sangue e merda. Questo la gente vuole. Inutile. Dovevi farla alzare incazzata. Lei non mi può dire così. Ci spieghi che vuol dire la politica di prossimità? Sì. Non l'hai fatto, no. Non l'hai fatto. Ma non cosa, l'hai fatta alzare. Ogni ma giorno dovresti far alzare qualcuno, dovresti cacciare ospite, qualcuno sì, dalla bello, trasmissione. Bellissimo, ogni l'ospite giorno. Cacciato. Dai, che bellissimo. Dai, che prima funziona, lo inviti dai. E poi lo cacci. Dai che funziona. Dai, che prima lo inviti. No, questa cosa che vanno via. Buonasera, arrivederci, buongiorno. Ma che roba è? Dai, su, Francero, anche lei lo sa che dovrebbe esserci questa roba qua ogni giorno, no? Che roba è? Che tu saluti, no? Cos'è il saluto? Basta, no? Ancora col saluto. Dai, la gente non si saluta più, la gente si odia oggi, dai che non si saluta più. La gente si detesta. Quando uno mi dice buongiorno io glielo vado a fare il culo in genere, ma quale buongiorno? Dai, ci sono cassi integrati, gente che dona soldi, esatto. Vedi uno per strada e dici buongiorno, quello ti vado a fare il culo, è la realtà, la vita. Esatto. Non c'è nessuna educazione. Scusi, questi due Parenzo e Telese che ancora fanno buonasera e salutano sera, le persone. Ma ci vuole la mazza, ci vuole, quale buonasera? Mi dici buonasera, ti devasto lo studio in diretta, dai che sono un cassi integrato, su. Ma buonasera, ma quale buonasera? Si usava nella TV degli anni 60, naturalmente, la signorina buonasera, quella che faceva naturalmente gli annunci, giusto, prima del telegiornale, si chiamava signorina buonasera. Sì, ma che roba è? Dai. Buonasera, uno oggi sta in cassa bisogna integrazione. Aprire le trasmissioni dicendo andate a fare il culo, dai. Basta, così funziona. Sei venuto qui, allora caro ospite, che cazzo sei venuto a fare? Come cazzo, mi hai invitato tu? Dai, mandalo subito a quel paese. Appena si siede un ministro, naturalmente. Buonasera e benvenuto. Lei è venuto qui, vada a fare il culo. Dai che funziona, così. Su, dai. Naturalmente a quel punto ci sarebbero dei problemi con gli ospiti. Naturalmente. Sì, dopo un naturalmente. Secondo. Dopo un secondo. Credo che è un programma, uno dei programmi naturalmente più brevi della storia, naturalmente. Lo puoi mettere in palinsesto soltanto per pochissimi minuti, naturalmente. Un programma che finisce immediatamente. Programma brevissimo, naturalmente. È anche bella l'idea del cassi integrato. Dice buonasera. Buonasera, un cazzo. No, ma cassi integrato, non gli puoi dire buonasera. Cassi integrato collegato, gli dice allora buonasera. Buonasera, un cazzo, cassi integrato, dai. Roba da pazzi, ragazzi, roba da pazzi. Pappalardo, un po' di Pappalardo che dice di essere ecco poeta, qua, scrittore, Pappalardo. Artista, letterato e musicista. Pappalardo. Poeta, che tu mandino, la cosa grave è che tu mandi in onda Pappalardo senza dire che è un matto. Perché dici che un è generale, così. È un ma generale. Non lo, ma è che un generale. Non lo contestuali, tu dovresti dire, ecco, ma sentite che cosa dice questo coglione. E invece no, tu lo presenti come fossi una persona normale. Questa è la gravità di questa trasmissione. È che è tutto uguale. Senti, cioè, senti. L'opinione di Pappalardo, quella certo. di Prodi, quella di Conte, quella del ministro Boccia, è tutta la stessa cosa, non è così. Perché Dante Alighieri si è inventato di andare all'inferno e al paradiso, al purgatorio, e ha fatto la Divina Commedia, mentre ho fatto la stessa operazione. Ma come l'hai fatto la stessa? Tutti a tagliarmi, Pappalardo parla con gli alieni, ma c'è altro. Siete degli emeriti cialtroni, non sapete a che cosa attaccarvi. Io sono uno scrittore, io sono un artista, io sono un letterato, io sono un poeta, io sono un musicista. Ma con chi credete di parlare? Venditori di fumo, di calunnie e di diffamazioni. Voi parlate con un uomo che scrive. Ma tutti scrivono. Aspetta, aspetta, ce l'ha con noi, mi sa. Aspetta, aspetta. Scrivo un libro, immagino di incontrare gli alieni e mi attaccano. Ma vergognati, questo per colpa di quei quattro cialtroni, di quei due cialtroni, di Parenzo e Cruciani della Zanzara. Siete due meriti cialtroni, ancora cominciate a scrivere e a occuparvi di noi. Non scriviamo. State attenti, a ottobre potrebbe cambiare il sistema. E che potrebbe cambiare? Potrebbe cambiare cosa a ottobre cambia? Il sistema e noi chiederemo alla magistratura, voi due per chi lavoravate? Ma no, per chi, per chi lavoravate? Per Confindustria. Come per chi? Per Sole 24 Ore, come per chi? Per non chi corre dobbiamo... chiedere alla magistratura, te lo diciamo noi, esatto, per chi? Non c'è problema, bisogno. Non c'è... Adesso c'è uno che si chiama Sisietto. Uno si può chiamare Sisietto, secondo te? Sisietto dalla provincia di Latina. Sisietto. Sisietto. Uno come cazzo fa a chiamarsi Sisietto? Chi Sisietto? Non so, mi chiamo così purtroppo. Ma che roba è Sisietto? Sisietto, che nome è? Ma ci sarà, sarà un nomignolo? È un nome originale. No, no, no, mi chiamo proprio così, all'anagra. Cioè Sisietto ti ha chiamato, tuo padre ti ha chiamato Sisietto. Ma come cazzo si fa, io dico, a farsi chiamare? Non lo so, me lo domando pure io tutte le mattine. Ma cambialo, no? Cambialo. Vabbè, me lo tengo. Ma poverino. Ma Sisietto. Lo so, dimmi. Senti, io ti volevo dire una cosa importante. Io 4 giorni fa sono tornato a casa, sì. Convivo da 5 anni, sì. E ho trovato la mia compagna con la quale mi dovevo sposare a letto con una donna. Ma non è vero, dai, su. Te lo giuro. Ma, infatti, come fa? Ma che prove ci sono qua di questa roba qua? Che prove ci sono? Non è che te le posso Ma non è possibile, ma è roba da fumetti, è roba da film, da fumetti. Uno torna a casa. Oltre al nome c'ho pure questa. Cioè, ma uno torna a casa e trova la ragazza. Io mi sarei buttato in mezzo, amico mio. Io mi sarei, francamente, vabbè, mi sarei buttato in mezzo. Mettiamo che sia vero. Io vado là e faccio un applauso. Abbraccio mia moglie, la mia compagna, quella che è. No, ma certo, assolutamente. Ma come no? Comunque c'è un sentimento. Comunque fermo un attimo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Mauro, che è Mauro? No, vabbè, Mauro, dai. Ma perché mi avete messo in mezzo Mauro adesso? Ha chiamato Mauro, qui passa tutto al centralino. Non si capisce un cazzo di quello ma che dice. Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Mauro, mi hai rotto i coglioni, Victor. Ma vai da un logopedista, vai da un logopedista. Ma non si capisce quello che dici. Sei finito, sei morto. Sei finito, sei morto. Ma che parlare? Poi, non si cose, capisce. Tra le altre cose, il cellulare nuovo l'ha comprato con reddito di cittadinanza. Lo compra con il reddito di cittadinanza il cellulare nuovo. Ma scusami, Mauro, dove l'hai comprato con reddito di cittadinanza? Certo, il telefonino, naturalmente. Certo. Mantenuto da Mantova. Certamente. Ma sei un mantenuto. Mantenuto, vergognati, mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Perché il coglione di Cruciani, d'accordo con gli altri due imbecilli del centralino, hanno storpiato la mia voce per... dicendo si sente male, invece è tutta una balla, per rovinare il mio intervento perché vogliono affossarmi. Certamente! Ma Dio santo! Ciao, sono David Parenzo e chiamo dal terrazzo dei Parioli. Anche a me piace leggere Libero e La Verità, guardare tutte le puntate di Dritto e Rovescio e Fuori dal Coro, prenderlo nel culo da Efebal e andare fuori a cena con Mauro da Mantova, Donato da Varese, il Demone Scimmia e Loris da Vicenza. I love my radio. Via! Da questo canale! Noi, Alessandro Primo. È normale. Davide, scusa, tu di solito con chi ti messaggi durante il giorno? Analisti, politici, colleghi, guarda, sì, eccetera, telese naturalmente. Telese qualche volta, sì, molto con Telese, con te, telese, sono Luca Telese, sono Luca Telese. Però molto, ad esempio, voglio confessarti, sì, questo, in queste ore con i corrispondenti, sì, da Bruxelles, ad esempio, con un po' di amici. Sì, senti a me che messaggi mi arrivano. Sì. Senti. Allora, sono al supermercato. Comunque, io, continuando a succhiare i cazzi, ricevendo i clienti, devo dire che non ho mai avuto nessun sintomo. Quindi, non so se ce l'ho avuto o no, ma io, quanto immagino, no. Perché, tra l'altro, nessuno dei miei clienti mi ha mai chiamato per lamentarsi, per dire che hanno beccato. Quindi, da me probabilmente fino ad oggi nessuno, lavorando quasi ogni giorno. Però, chissà quanti hanno preso e non lo sanno, o piuttosto non è uscito fuori, cosa devo dire? Capito? Capito la differenza? Tu con che i corrispondenti, questi io con una che succhia i cazzi ogni giorno. Mi stavano aggiornando sul recovery fund. Ma vai a cagare, Riccardo dalla provincia di Lucca. Vai, Riccardo dalla provincia. Ma tu dici vai a cagare, però. Ma che ce ne frega a noi delle trattative con l'Europa, dai. Cioè, parliamo di cose più concrete, dai. Soldi che devono arrivare qui. E come fai le cose? Come pensi di farle? Ma vediamo. Quando arriveranno questi danari, Riccardo, dimmi, Riccardo. Vai, Cruciani, Cruciani, hai aperto la trasmissione dicendo che se prendo coronavirus dovrei andare a costituirmi. No, non ho detto, io ho detto una cosa. Se tu frequentassi, una puttana, ho detto, una puttana, di fronte alla scelta, confessare davanti a tua moglie che sei andato a puttane e ti sei preso il coronavirus perché è notizia, come dire, di dominio, è cosa di dominio pubblico e quella puttana c'è il COVID, tu che cosa faresti? Cioè, di fronte che a questa scelta. Scusami, ma sei partito di cervello? Direi che ho stretto la mano a uno, ho preso il coronavirus. Ma che discorsi no, fai? Ma non lo sai se ce l'hai o no. Sai che sai che quella che hai frequentato, la prostituta che hai frequentato, ha preso il coronavirus, come quella peruviana che è stata a Modica. Che cosa fai a quel punto? Vai all'ASL a farti visitare con il rischio di essere beccato? Perché non è che te lo fanno fare a cazzo di cane il tampone. Non faccio nulla di tutto ciò, niente di tutto ciò. E che fai? Mi prendo, se l'ho preso, me lo prendo, me lo curo, punto e basta, e dichiaro. Ma come fai a saperlo se ce l'hai o no? Devi andare al comune a dire, eccomi qui. Ma che discorsi fai? Ma scusa, si manifesta ma Parenzo, questa cosa? Ma Parenzo, glielo dici tu che ci sono quelli che non si manifesta, gli asintomatici o no? Glielo dici tu o no? Allora, guardi, amico caro, lei i tre mesi di lockdown non ha capito un cazzo. Lei dov'era in quei tre mesi di lockdown? Aveva la testa dentro il water e non ha sentito, e lei ride. No, non c'è da, no, non c'è da ridere. Lei gli asintomatici positivi li ha mai sentito parlare? Lei sì, naturalmente. Allora, se tu vai a puttane e dopo si scopre che quella puttana ha preso il COVID, devi andare a alzi la mano e vai a costituirti davanti al sindaco. Ma chi ci va? Dunque, tu vai a puttane. Mi sembra di capire ma che vai a puttane. A puttane non ci vado, però. Ma come no? Ma figuriamoci se non ci vai, ma tu sei un puttaniere incredibile. Non lo vuoi dire. Ti voglio dire io sono di Torre del Lago Puccini di Viareggio. Sì, Torre del Lago, c'era una grande festa transessuale una volta. Bravo, c'era una cosa eccezionale. Questo gli piace il cazzo. Questo gli piace il cazzo. È interessante questa cosa. No, a me mi piace il cazzo. Sicuro, matematico. Matematico. Parenzo, lo sai anche tu, no? Di fronte alla diversità, qualche sospetto legittimo molto aperta, c'è quindi, molto aperta si dice sempre molto aperta, a prenderlo in bocca passa però, poco perché l'hanno chiusa questo gate, che portava 5.000, 6.000, 10.000 persone per terra d'estate. L'hanno chiuso per l'acustica. Gli uccelli con le penne, Gli uccelli non comunicavano. Mi ricordo questa cosa. Allora fai qualcosa per questa cosa. Ci ha mandato un messaggio Quirico, signor Quirico. Sentite, un po' lunghetto, però è avvelenato. Cioè, fammi capire, Cruciani. Ma a parte che non ha detto che devono inventarsi un'altra cosa. Gli ha detto bisogna aiutarli a reinventarsi un'altra occupazione e non perdere l'attività. Ma qui travisiamo tutte le parole che vengono dette. Ma guarda che qui porco Giuda, non si sa più manco come poter parlare, via di sì. Ma vi rendete conto di quello che cazzo dicete? Ma ti rendi conto di quello che cazzo dici tu e quello che dice quel deficiente de porro? Ma che cazzo vi siete messi in testa? Ma

Adama. Adama. Sì. Quello dell'altro settimana. Bravo. Ma non ho capito perché Adama non ci può andare. Il brasiliano. Ti sta antipatico il brasiliano? No, ma è simpaticissimo. Però dico. Ha sempre preso il Chalis perché deve andare a Dama. Bravo. Ho capito, scopa col Chalis. Che problema c'è? Mica ma nessun problema. Mica è come te che non, mica è come te che non tromba più. Ma che cazzo stai a dire, Cruciani? Pensa per tuo. Avrai 63, 64, 65, figuriamoci, una vita usurante, una vita passata sul camion. Starai sicuramente... Sarai sicuramente col cazzo consumato, col pisello ormai consumato, finito, morto. Molto consumato perché ha molto lavorato. Ma però intanto si fa il suo per quello che è, secondo la carta d'identità. Comunque è incredibile, guarda. Hai dato non voglio rimanere con la lingua da una parte, con i maialini. In che senso? Scusa, non ho capito. Perché sai, tanti se viano il Chalis, se viano il Viagra, e poi dopo rimangono... Qua da una parte. Tu dici tu dici con l'infartino. Appunto, quello che posso fare è vivere. Sì, per questo pure è una buona cosa, per carità, non è sbagliato. Però secondo me un po' ti piacciono i trans, ho quest'idea. No, te la pindo il culo, a me non mi piace. Secondo me sì. Te la pindo, cosa dici? A me mi piace il pelo. Ma che modo di parlare è? Secondo se vuol dire te la piander, ma perché mi sa dire under? Secondo me ti piacciono i trans. Secondo me questa è la mia impressione. Guarda che l'impressione è sbagliata. Ma guarda che non c'è niente di male andare a trans. Nessuna cosa di male, niente. Secondo me quando bussavano lì al tuo camion, qualche transessuale, qualche gay lì pronto. Ti sbagli proprio, sempre rifiutati e respinti. Tant'è che è andato in pensione a spese mie, sto cornuto, pensa a te. Io tutte le mattine mi devo alzare alle 7 tutte le mattine per pagarti la pensione. Sto cornuto. Io ogni volta che Cruciani dice abbiamo al telefono cornuto. Ogni volta che Cruciani dice, ascoltami, ogni volta che Cruciani dice, oh, abbiamo al telefono Quirico, io spero sia Domenico Quirico della Stampa. E invece no, tutte le volte. Tutte le volte c'è sto mortaccione andato in pensione. Hai capito. Dopo 20 anni di contributi, neanche se ne ha fatti 20 e tanto. No, io l'ho fatti 45, bellino. Ma figurati. Ciao, Quirico, ciao, vattene a fanculo. Va. Ciao, buone vacanze, andate a fanculo tutte e due, a passi lunghi e ben distesi. Ciao. Ma che vuole questo? Come si permette? Tanto ha dato dell'evasione fiscale. Sì, Francesco da Vicenza, dai. Ma guarda che questa trasmissione è incredibile. C'è un reato a minuto. Ma io almeno, non posso essere diffamato mentre conduco una trasmissione. Guarda che è una cosa gravissima. Comunque, se ci pensi. In questa trasmissione è 10 anni che accade. A te in questa trasmissione ti hanno detto le peggio cose, evasore fiscale. Roberto da Venezia, dai. Dimmi, c'è da 10 anni. No, da scusa, 10 anni. Francesco Vicenza, scusate. Da 10 anni. Sì, buonasera. Dimmi. Questo allora, è poco lucido, allora io volevo chiedere una cosa a Parenzo, perché sento spesso le vostre trasmissioni e non capisco perché David Parenzo non allarga un po' i suoi orizzonti, cioè come il feticismo. Ma se quello non è feticista, sarà cazzi suo, non è uno, è obbligatorio essere feticisti. No, non è obbligatorio, nemmeno. Allora. Sì, è chiaro che a me non è che piace leccare i piedi di qua e di là, ma dico, scusi, perché ma non provare una volta ogni tanto? Ma io adesso, questo scusi, pure è vero, dovresti, anche tu le dovresti... posso chiedere una cosa? In quale altra trasmissione radiofonica un coglione, nel caso lei, telefona e dice a uno dei conduttori che dovrebbe leccare i piedi? Io voglio sapere in quale altro contesto questo accade, in quale altro contesto che uno chiama e dice al conduttore, scusi, perché open mind, perché lei non lecca i piedi? Dove accade questo? Francesco, scusa, dimmi un attimo, qual è la giustizia, cioè perché di questo tuo intervento? Perché dovrebbe provare delle cose? Le cose dopo, cioè, ragazzi, è un consiglio che ti dà, ti godi a metà le cose. Non è che dico che uno deve fare, però dico cazzarole, ragazzi. Dai, cioè, allarga, uno gode a metà così. Bravo. Cioè, tu, per esempio, non lo fa, no, è malissimo, ma ragazzi. Ma scusi. Cioè, tu hai ragione un po', vuole? Francesco, a un certo punto dice prova qualche cosa di strano, non sempre le stesse cose. Cose, cioè, ragazzi, dai, a un certo punto. Sì. Stufa un po'. Certo che stufa, perché dici sempre quel buso lì e allora. Ma mi stufi tu, che chiami, tu mi stufi, tu sei Fabio da Milano, dai, Fabio da Milano, dimmi Fabio, dimmi. Sì, sono un ciclista. Sei un ciclista. E volevo parlare di quel troglodita, di quel camionista che ha chiamato due settimane fa. Bravo Parenzo. Questi qua dovrebbero lavorare solo di notte, così non rompono i coglioni a nessuno. Vabbè, bravi, però questi qua lavorano, non è come te che vai, sei un ciclista un ciclista e passi del tempo. Ci sono tanti camionisti collegati che sono incazzati neri perché rallentate la gente che lavora. Anch'io mi sono rotto i coglioni alcune volte di vedere la gente che sta lì e fa i cazzi suoi mentre uno magari sta andando al lavoro, sta andando da qualche parte. Dunque io li capisco, poi non capisco quelli che ovviamente vi vogliono investire perché quello poi dicono ma non fanno. È per questo che sono dei trogloditi, Parenzo fa bene. Ma cosa fa bene? Il 90% sono trogloditi. Cioè stai dicendo che il 90% dei camionisti sono dei trogloditi, ti rendi conto della gravità delle cose che... No, assolutamente, sono dei trogloditi, oltre che mezzi buttanieri. Ma anche quello che c'entra. Ma ho capito, ma non ho capito, tu sei un ciclista, vai in bicicletta per i cazzi tuoi, certamente non per professione, per divertirti. Va bene, ho capito. Ma ho capito, ma un camionista cosa deve fare che sta lavorando e si vede rallentare da uno che sta lì e magari lo piglia anche per il culo? Si incazza come se incontra un trattore, cosa fa il camionista? Il trattore lavora, il contadino lavora. No, tu stai lì per i cazzi tuoi a divertirti. Tu stai là per divertirti. È un diritto anche divertirsi. È un diritto per divertirsi. Vabbè, ma io capisco che invece si incazzano con voi, perché ogni tanto li pigliate per il culo, state lì apposta in due, tre a fianco, dai, su, è così. Personalmente non lo faccio, ma avrei voglia di farlo. Parenzo fa bene quando rallenta, quando si mettono lì, che fanno i sorpassi con due corsie. Fa benissimo. Sono dei trogloditi solo di notte. Loro lavorassero solo di notte, dalle 10 alle 6. E non c'è nessun problema per nessuno. Tanto ormai possiamo farne a meno di loro. Ma non è vero. Dici che possiamo fare a meno dei camionisti? Non dire stronzate, Fabio. Basterebbero padroncini. Ma non dire stronzate, dai, con questa cosa assurda, dai, su. È un po' vecchio grillo di un tempo. Ciao. Ritorno il brasiliano con noi, buonasera. Direttamente dalla cucinetta magica, Vanessu. Già fa io a rompere i coglioni, Vanessu. Già fa io. Ma sì, ma cosa? Che cosa ti stupisce? Contro tutti, chi sarebbero sti contro tutti? Aspetta, Brasile, adesso fra poco ti presento una persona che ce l'ha con te, che ha delle cose da dire. Voglio capire, scusi signor brasiliano, anzitutto per capire se lei è informato sui temi dell'attualità, ha visto che il premier Rutte è un po' in lite con l'Italia, ha visto, no? Ma lascia perdere Rutte, è maleducazione fare Rutte, il premio olandese, il premier olandese. Ma io quando mangio faccio i rutte, io faccio certi rutte. È una cosa pazzesca. Scusi, lei, paesi frugali, lei sa quali sono i paesi frugali? E ride. Ma perché ride? Perché la paese il tema di questi perché il paese reale quello del Brasile. Delle fragole, non frugali. Ma che schiasta stai a Poro Parenzo? Scusami, ma come Poro Parenzo? Perché brasiliano? Scusami, amico brasiliano, lei come farebbe le trattative con l'Olanda? Cioè, questo è giusto. Sì. A proposito d'Olanda, io farei una trattativa con l'Olanda. Innanzitutto manderei dei soldi contanti perché c'hanno un'erba mostruosa in Olanda. Ma che erba? Farei il baratto erba soldi, perché a Roma non c'è sta né fumo né erba oggi. Questo è interessante, cioè tu non c'entra niente con il recovery fund. Intanto con l'Olanda dovremmo fare il baratto del secolo, cioè? Ci facciamo mandare 1000 chili di erba, lo vendiamo con un giorno a soldi subito. Intanto, ma cosa dici? Questo è interessante. La sua manovra economica. Che in Italia li levamo con due giorni. Voi mi date 3-4 mila chili di erba e di fumo,

Pietro, ti va di mettere quello stacco che non metti da un sacco di tempo, quello che fa siete di Varese? Siete di Varese? Di dove siete? E non vi affrontate con Salvini, merdosi, che siete? Siete merdosi! Siete merdosi! Fate schifo, merdosi, siciliani di merda! Fate schifo, merdosi! Siete di Varese? Fate schifo, merdosi! Siete di Varese? Fate schifo, merdosi! Di dove siete? Fate schifo, merdosi! Siete di Varese? Fate schifo, merdosi! Siete di Varese? Fate schifo, merdosi! Di dove siete? Siete di Varese? Siete di Varese, siete di Varese, merdosi, siciliani di merda, siete di Varese. Gottardo. Gottardo era uno con le palle. Gottardo, beh, non si sarebbe mai nascosto dietro le guardie del corpo contro alla sola vista di un misero Mauro da Mantova. Gottardo era quello che con la sua manina gli fece pat pat sulla testa del fascistone. Il tiramidux glielo mise sul fez. Dov'è Gottardo adesso? Perché non è più libero? Libertà per Gottardo, verità per Gottardo, Gottardo libero. Primo, a settembre siete pregati di tornare con la zanzara. Secondo, fate meno comparsate in TV e concentratevi sulla radio. Terzo, Parenzo, vattene a fanculo. Caso Gottardo impazza ancora, David. Il caso Gottardo. Ma come direbbe Sallusti, è un caso clinico, un caso psichiatrico. Ancora. Caso dire. Ho detto, ma perché come lo vuoi fare passare per pazzo? Ma non lo è dico. È una cosa incredibile. Ma io gli voglio bene come fosse normale ancora con sta storia, ma mi insultate sempre. Ma stai dicendo come se fosse normale? Veramente... Ma che sei scemo? Ma sì, gli voglio veramente bene. Lo abbraccio fortissimo, così abbracciano le persone un po' disturbate. Ma non sto dicendo niente. Ma quale sarebbe il disturbo? Questo... Spiegami, quale sarebbe il disturbo? No, ma dimmi qual è il disturbo adesso. No, la cosa si fa seria. Allora, vedi che lo hai riconosciuto anche tu. Allora, è una patologia. Ma qual è la patologia? Tu l'hai detto che quale disturbo ha e io non voglio dirlo perché rispetto alla privacy di questa persona. Cagare, ma quale domanda hai ammesso anche tu? Spero tu stia scherzando. Mi dispiace, su questo affare. Gli voglio bene, veramente. Gli voglio veramente bene, mi dispiace. Dai, poveretto, è così. Ma poveretto cosa? Che poveretto? Intanto. Dai, non disturbarlo. Parlano di Satana, la coppia Meluzzi-Fusaro. C'era anche Gottardo. Parla. C'era anche Gottardo. Satana. Noi, esatto. Che esistano sette sataniche, queste sette sataniche siano in azione. È una cosa che i grandi esorcisti e anche i criminologi hanno sempre saputo. Siete satanici. Sì, dai bambini di Satana a Manson, ma anche alle grandi testimonianze di grandi esorcisti come Padre Amort, che ci siano persone che scelgono il principio personalizzato del male per dare una voce, dare una forma alle proprie perversioni sessuali, è una cosa che si sa. Sì, hanno scoperto una setta, per esempio, di un pazzo che voleva semplicemente scopare a 77 anni e si era inventato una setta, soprannominato il dottore. Ma cosa c'entra tutto questo con le elite? Senti, con le elite. Oh, ma gli dai voce, tu gli dai voce. Innanzitutto smascherando i santuari delle elite e dell'establishment che coprono tutto questo. Ma cosa coprono? Il principe Andrea, figlio della regina d'Inghilterra, quindi parliamo di elite ad altissimo livello. È chiaro che queste elite hanno un atteggiamento di copertura nei confronti di un fenomeno che li tocca, li coinvolge direttamente e quindi tendono ad influenzare anche i poteri giudiziari, i poteri di polizia. Le elite coprono le sette sataniche di pervertiti. Ma poveretto, ma pervertito è lui. Lui è un pervertito con queste idee folli. Ma direi che in questo mondo progressista, gender, edonista, assolutamente restio ad ogni limite, ad ogni regola, ad ogni confine, allora... ad ogni codice di comportamento, senza Dio, senza patria, senza famiglia, con un'idea di autoaffermazione narcisistica dell'uomo come unica forma di vita, è chiaro che queste elite diventano un elemento di copertura. Quindi colpirle, smascherarle, come ha fatto l'amministrazione Trump, è sicuramente una cosa molto importante. Però vorrei far presente che Trump non è proprio il massimo, la massima espressione della famiglia e della regolarità, il signor Trump. In alcun modo, signor Trump. C'è un libertino che fino a poco tempo prima di diventare presidente raccontava dappertutto di quante donne si scopava con grande soddisfazione. Scusami, Meluzzi, però ti vorrei far presente che Trump è questo, Signor Fusaro, senti la doppietta che ti faccio. Non mi stancherò di ripeterlo. Ratzinger fu potenza catecontica che provò a resistere nel nome della tradizione teologico-filosofica e dell'apertura alla trascendenza cristica. Come provò a resistere all'avanzata diabolica delle potenze infere del globalismo nichilista e relativista. Ma no, vaffanculo! Ma no, super cazzo, ma me la fate ripetere? Ma non gli dici niente. Ma è una super cazzo, è meravigliosa. Ma mandalo a fare in culo proprio. Ma dillo, ma senti, anche che tu. Questa. Ma non voglio sentire niente. Risentila, ti prego, risentila. Non voglio sentire niente. Ancora è presto. Non mi stancherò di ripeterlo. Ratzinger fu potenza catecontica che provò a resistere nel nome della tradizione teologico-filosofica e dell'apertura alla trascendenza cristica, provò a resistere all'avanzata diabolica delle potenze infere del globalismo nichilista e relativista. L'apertura alla trascendenza cristica e poi potenze infere, se non sbaglio, no? Catecontica. Cosa? Senti questo. Ma vaffanculo, guarda. Bergoglio per parte sua. Il primo pontefice mondialista segnò nel 2013 il trionfo delle potenze cristiche in seno alla Chiesa stessa. Non che fosse egli stesso la potenza anticristica, intendiamoci, ma sicuramente nulla oppose al dilagare di tale potenza anticristica. Anzi, da un certo punto di vista, sembra che in più momenti abbia addirittura assecondato questa avanzata delle potenze anticristiche. Le potenze anticristiche, ma secondo te ci pensa la notte a quello che dice? Cioè, perché tra potenze anticristiche, diciamo, l'apertura alla non trascendenza, diciamo cazzate, non diciamo cazzate. Devo dire che le favore. Potenze anticristiche non è male. Mi manda catecontico, sei catecontico, sei. Allora c'è Anna dalla provincia di Varese che mi sembra prima ci abbia mandato un messaggio molto forte contro l'immigrazione. Mi sembra Anna da Tradate, se non sbaglio, la signora Anna. Sì, Anna. Sono io. Come andiamo, signora Anna? Come andiamo? Andiamo bene. Mi dica tutto, signora Tradate, Anna, ma lei... Già uno che sta a Tradate, voglio dire, comunque, vabbè. Che c'ha a Tradate? Scusa, che c'ha ma di male? No, voglio Tradate. Dire. Ma no, ma ti credo che s'annoia ai telefoni e rompe i coglioni. Uno che sta a Tradate, farei lo stesso anch'io, fossi di Tradate, passerei la giornata ad ascoltare la zanzara e a telefonare. Che cosa vede lei dal suo balcone? Che cosa vede in giro per la sua cittadina, signora Anna? Cosa vedo? Allora, dietro di me c'è un gruppo di case piene di immigrati. Vogliamo cominciare con questa storia. Piena di immigrati, che fanno questi immigrati? Che scappano, che vanno in giro col Covid. Ma dove scappano? Come scappano? Non sono degli animali che scappano. Cosa vuol dire scappano? Ascoltala, è una testimonianza da una cittadina. Parli, signora, scappano poi. Allora, non fanno la quarantena, ma io non parlo solo di Tradate, io parlo anche di Varese, perché mia figlia abita a Varese. Allora, cosa è successo? Ma che sono questi qua? Al di là di questo, sono delinquenti questi qua? Lei ha detto che... Allora, sono immigrati, giovani, che io vedo da un sacco di anni, a chiedere l'elemosina. Basta, non fanno niente. Sono permessa di gridargli contro, basta, non ti do i soldi, mi ha preso il suo cappello, me l'ha dato contro la... si chiama contro il braccio, no? Ha preso il cappello, un atto terribile. Non me ne frega niente, io li vedo terribile. Mi ha preso il cappello e lo ha buttato per terra. No, non l'ha buttato per terra. Mamma mia. L'ha presa e me l'ha buttato sul braccio e io gli ho gridato dietro perché sono stufa di queste cose. Ma se è stufa, è stufa. Lascia stufa. Essere. Cioè, perché non vuoi? È stufa la signora. Lo capisce lei? Io che sono stufo di ascoltarvi, io sono stufo. Io mi sono stufato di tutti voi. Signora, ci sono, sono giovani anche, sono giovani anche muscolosi questi signori qua? Allora, sono anni che vedo le stesse persone a chiedere l'elemosina, non fanno niente, ho già chiesto anche ai carabinieri, non possono fare niente i carabinieri, sono qua, a fare che cosa? Niente, non sono qua a fare niente, né a lavorare, né niente, e allora? E allora qual è la situazione? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Così? Davide, come si fa? La signora ha paura? Allora, lei ha paura a girare? Ha paura? No, di giorno no. Alla sera non si esce, logicamente. Non si esce la sera, signora. Lei alla sera non esce perché non ha un cazzo da fare, quindi sta a casa. A Tradate, dove va la sera? Sta a casa, paesino meraviglioso di 18.000 abitanti. Ci sarà un cinema, se è tanto. Dove va lei la sera? Sta a casa. Non è che non si esce per via degli immigrati, non si esce perché non c'è un cazzo da fare. Questo ma lei è il tema. Chi è, scusi? Lei è Parenzo? No, sì, è Parenzo. Ma chi è lei? Scusi, ma chi è lei? No. Comunque. Non ho capito il Covid, qual è il punto sul Covid, signora Anna? Non c'è nessun punto. Come non c'è del Covid? Il Covid bisogna fare, se uno ha il Covid deve fare la quarantena. Allora, ma certo, ma se scappano, dubbio, ha ragione ovvio, la signora, ovvio. Se scappano è un problema o no? Ovvio che lo deve fare la quarantena. Guardi, c'è qui dietro di me la Barbara Melzi, che sono pieni. Qua adesso anche il sindaco e il signor Candiani della Lega li vuole chiudere, ecco, e sbattere fuori tutti. Vuole chiudere tutto. Cosa chiude? Cosa sbatte fuori? Cosa vuol chiudere? Scusi, signora, cosa volete chiudere questo centro? Scusi signora. E lo chiudesse, visto che governa, lo chiudesse. Chiudesse quel centro e poi dove li manda? Ma guardi che questo è una cosa, è un discorso, come si chiama, non è un discorso fatto così tanto per ridere, guardi che questa è una cosa grossa. È grave questa cosa, è enorme. Però scusi signora mia, lei che cosa farebbe con quelli che arrivano con le barche, scusi, con quelli che arrivano? Come fare? Guardi che stanno arrivando già col Covid adesso, cosa mi dice? No, ma che cosa farebbe lei? Li respingerebbe, no? Mi respingerebbe. Allora, prima di tutto lo sapete cosa c'è in ballo, no? Che cosa c'è in ballo? No, cosa c'è in ballo, signora mia? Cosa c'è in ballo? Scusi, i soldi. I soldi, ma giustamente. Li traghettano qua perché ci devono guadagnare. Non ha torto la signora Anna, non ha torto la signora. Li traghettano la Tradate. La mafia. Sì, la mafia. Si lavora insieme, ecco. Certo. Ma sì. Non ha torto la signora. Allora, il signor Conte... bocca chiusa, se si interessa di altre cose, dell'Europa. Non dice niente, questi entrano, noi li abbiamo tutti qua in Italia, l'Europa sta zitta e io la chiamo la discarica del mondo, l'Italia. Ok, chiaro? Signora Anna da Tradate, numero uno. Ciao Anna da Tradate, sì, ciao, sì. Ecco. Ciao. Ecco qua. Mauro da Milano, vai Mauro. Mamma mia. Sì, pronto. Dimmi Mauro, dimmi. Ciao, vabbè, dopo le potenze anticristi che Anna da Tradate è difficilissimo stare a livello. Dimmi Mauro. Devo dire che i cervi hanno rotto i coglioni e gli animalisti è ancora peggio. Ho sentito Caporale che parlava dei cervi e basta. Tu li cacci? Sì. Sei un cacciatore tu? Assolutamente. Ma com'è cacciare i cervi? Cioè, come funziona la storia? Cioè, è difficile, no? Sì, bisogna aspettarli e si vedono soltanto la mattina molto presto, la sera molto tardi. E bisogna cacciarli perché sono troppi, perché erano un po' di coglioni. Sono buonissimi da mangiare, basta non cacciarli in amore, bisogna lasciarli stare quando sono in amore perché puzzano e poi si devono fare le loro chiamate, ma sono molto buoni, bisogna assolutamente dire che è così. Ecco, ma quanto ci vuole per bisogna stare in attesa per quanto tempo, per esempio? Fammi un esempio. Dipende, poco, abbastanza poco, perché l'ora buona è molto breve, perché sono animali notturni, quindi... Ma quanti ne ammazzi tu all'anno? Ma due o tre, dipende quando posso. Che impressione, ragazzi. Ma che impressione di che? Quando ti mangi la carne di cervo, che fai? Pensi che venga dal cervo? Ma io non l'ho mai mangiato. Pensi che venga prodotta da una macchina, non ho capito. Da come viene prodotta? Cacciando il cervo. Io in realtà non l'ho mai mangiato. Che cazzo ne so, non credo che si allevi il cervo. No, in realtà sono più un cacciatore di camosci, mi piace di più perché... Camosci, ammazza i camosci, signor Mauro, certo, sì, ammazza i camosci. Assolutamente. Ma certo, bisogna dirlo senza problemi, senza infingimenti, senza fare troppo i sofisticati. Ammazza i cervi, ammazza i camosci, legittimamente, non è che viola la legge, immagino, no? Allora, diciamo che il dibattito da noi è basato su Bambi, no? Se si parla di ste cose, ma che Bambi, ancora queste cazzate, dai. Beh, però fa un po' impressione. Caporale, effettivamente. Ma no, ma cosa? Ma quale impressione che nei vostri cervelli bacati fa impressione? Caporale, adesso non mi ricordo, volete nascondere la realtà? La mocetta valdostana sarebbe il cervo o no? No, è fatto di camoscio. Quelli che quelli che cacciano. Il tema è che, insomma, di ste robe non si può parlare perché subito ti sparano Bambi in copertina. Tutta gente che sta lì follia, per fare ciao Mauro, momento, ciao Mauro. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Ho trovato quattro parole che riassumono la mia vita. La gente deve pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare e con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare. Soffrire. La gente deve pagare. La gente deve pagare e con il sangue. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare. Pagare. La gente deve pagare e con il sangue. Pena di morte no però. Chiudere e lasciare morire. Pena di morte no però. Soffrire. Allora, per il matrimonio di Parenzo, Algero autista. Ottimo. E il brasiliano compare di matrimonio. Siamo al top. Ma perfetto. Cruciani, parla dei peli sui capezzoli, non di puttanate, non di MES, non di Europa, non di Santori, non di sardine, nemmeno del pelo della fica, ma peli sui capezzoli. E lì sì che sei al top. Se non esageriamo, sì, i peli sui capezzoli sono una rarità totale. E a me personalmente non piacciono, cioè non ho mai visto in realtà in vita mia. Devo dire la verità, non l'ho mai visto in vita mia. Non ho mai visto un pelo su un capezzolo. Film dell'orrore, film dell'orrore. Oggettivamente questa roba qui, per carità, tutte le perversioni vanno bene, tutte come dire, le fissazioni. Ho capito, ma se uno gli piacciono, se uno piacciono i peli sui capezzoli, gli piacciono i peli sui capezzoli, non è quello il punto. Ma dico che è una rarità assoluta. Ma io vi denuncio a tutti. Cosa denunci? Cosa vuoi denunciare? Scusa, non ho capito. Tutti, ma cosa vuoi denunciare? Cosa? Per queste porcherie vi denuncio tutti. Oh, intanto, ogni tanto anche alle persone, non dico violente, ma insomma, uno come Vassallo, no? Te lo ricordi l'animalista Vassallo? Uno di quelli, certo, che stava qua sotto a pascolare anni fa, non è violento sicuramente, un cazzone, che una volta ha detto che alla madre... non so cosa farebbe, non farebbe, non darebbe le medicine se queste medicine fossero prodotte con qualcosa che viene dagli animali. Pensa te, signor Vassallo, vecchia conoscenza, è stato aggredito da un presunto cacciatore o un presunto antivegano per strada. Papà, svegliati. Svegliati. Gianni, fermati. No, no. Chiamate i carabinieri, chiamate i carabinieri, mollalo, mollalo, mollalo, mollalo, mollalo, e mangia, mollalo. Mi fai male, lascialo, basta, coglione, basta. Personaggio pubblico, sto finitela. Potete chiamare i carabinieri. Io ti tengo qua i quattro cappello. Anche morso. Vai sul furgone, vai. What's that? monster? Is it a monster? Vabbè ragazzi, io non so chi sia questo qua che ha aggredito Vassallo, ma con gli animalisti, anche quelli più estremisti, bisogna essere molto gandiani, molto gandiani. Altro che botte, altro che aggressione. Ma dove l'hanno aggredito? Ma non lo so, a Biella, per strada, l'hanno riconosciuto, uno gli ha detto, pare che gli abbia detto vegano di merda, una cosa di questo tipo. E bisogna fare tutto il contrario, essere gandiani al massimo. Francesco da Bari, vai, Francesco da Bari. Anzi, Willy da Trento prima, poi Francesco, Willy Trento, vai. Ciao fratelli, dimmi, dimmi, bene? Dimmi Willy, dimmi. Allora, prima di parlare di quello per cui ho chiamato, volevo un attimo chiedere a Parenzo, come cazzo si fa a passare da McLuhan, ok, per giustificare la zanzara, e parlo di 6 anni fa, Ah, cioè, contestualizzo, 6 anni fa lui parlava di McLuhan per giustificare Willy, la zanzara. Andiamo al sodo, dai amico mio, su, non cominciare a fare filosofia, dai. Parenzo, non cominciare a filosofeggiare, dimmi. È una puttana con 12 buchi del culo, ok, allora. Ma che vuol dire una puttana con 12 buchi? Buonasera, a parte, benvenuto, grazie. A parte che il mestiere di puttana è un mestiere nobile per me. Nobilissimo, ma... E allora non rompere i coglioni, che vuol dire una puttana con... Ma dai, ma capisci anche tu il contesto, dai. No, non ho capito nulla di quello che vuoi dire, nulla, zero, comunque dimmi, dai. Nulla, nulla. Nulla. Quando lui, quando inizialmente adesso dice che sono tutti dei trogloditi, insulta tutti gli ascoltatori, e 6 anni fa parlava di McLuhan per giustificare, cioè, ma non è che stiamo, ma non è che stiamo facendo quello che uno diceva 6 anni fa, quello che uno dice adesso, ma che roba è? No, dai. Era per dire che mi fa ridere, mi fa ridere. Vabbè, ti farà ridere, a noi non ce ne frega. Meno male, sì, meno male che ridere, ridi. Ma sì, dai, ma ok, comunque il discorso, cioè, ho chiamato per parlare della pornografia. Allora e, no, e meno bambini. Male. Mi sembra più seria come cosa, dimmi. Ok, praticamente io a 5-6 anni con dei miei cuginetti abbiamo trovato delle cassette porno a casa di mio zio. Sì. E vabbè, fin qua nulla. 5-6 anni mi sembra che non potevate nemmeno capire che cosa c'era in queste cassette. Cioè. Ascoltami, esatto. E dopo allora? Arriviamo a questo. Oh, dunque. Ma cosa avete guardato a 5-6 anni? Cosa hai guardato? Cretino, Francesco da Bari. Non hai guardato mamma un cazzo mia. A 5-6 anni. Mia, Francesco mamma da Bari. Mia, dimmi. Mamma mia. Dimmi. Pronto? Dimmi Francesco, Cruciani. Dimmi. Ciao, ciao Cruciani. Senti, ho una semplicissima domanda per te. Intanto saluto anche Parenzo. Dai, forza Francesco, dai. Sì, non mettermi subito fretta. Volevo farti questa domanda. Che cosa pensi di fare quando questa trasmissione chiuderà definitivamente i battenti? Non so cazzi perché... tuoi. Emma da Torino, non sono cazzi tuoi, non so che cazzo ne so, non so quando chiude, se chiude, come chiude, non lo so. Che devo raccontare a te adesso quello che farò della mia vita? Che cazzo vuol dire? Cioè, Francesco, dimmi allora. Basta, come cazzo pensi di riciclarti? Non ho capito, scusa, ma non c'è bisogno di riciclare su nulla. Qual è il suo problema? Non c'è bisogno di riciclarmi su nulla, non ti preoccupare. Ha comunque una sua identità, fa altre trasmissioni. Sì, io sono un povero stronzo. Io sono un povero stronzo, può darsi che non c'è più. Sì, può darsi che sono abbastanza ricco da mandarti a fare in culo. Può darsi che io sia abbastanza ricco da mandarti a fare in culo, chiaro? Sì, ma tu puoi pensare quello che vuoi. Sì, tu puoi pensare quello che vuoi. Però può darsi che io sia abbastanza ricco da mandarti a fare in culo, capito? Questo è il punto. Ciao Cruciani, ciao, questo... ti mando a far culo io stasera. Ciao Crucio. Bravo, Emma da Torino, vai Emma. Oh, buonasera Cruciani. Dimmi Emma, dimmi. Oh, viva il pelo, lo possiamo dire? Assolutamente, no. Viva il pelo, sì, lo possiamo no. sempre dire. Come no? No? Sì, no. Lo possiamo lo dire. Voglio no. dire, viva sì. il pelo, perché... Cosa sì? Pelo... Quanti anni hai tu Emma, quanti anni? Io quasi 51. Beh, amica mia, però a 51 anni è normale che tu possa dire viva il pelo, perché magari appartiene ad una generazione che non è come una 25enne, 27enne, 30enne di adesso, che di solito sembra una settantenne. No, una settantenne esagerata, ma cioè dite, non è che c'hai 70 anni, ce n'hai 51. No, ne ho quasi 51 e anzi. Hai un pelo, dire... hai un pelo folto? Sì. E poi Cruciani, ma te lo curi o non te lo curi? Non ho capito, fai te lo ritocchi, non te lo ritocchi, lo lasci incolto, mamma com'è? Mia, allora, mamma mia. Allora io sono dovuta scendere al compromesso in estate delle gambe, cioè? Però Cruciani un pochino via. Ah, sulle gambe, però, ma sull'inguine? No, sull'inguine mai. E dunque Cruciani, com'è? Folto, esce fuori, che fa sto pelo? Cioè com'è? Tipo foresta fa, oppure è più basso, mia. Tipo prato inglese? Com'è questo ma tuo perché? Pelo? Perché? Direi un muschio folto. Un muschio folto. Ma chi se ne frega di muschio selvaggio, sì. Muschio un folto. Muschio folto, ma soprattutto Cruciani, diciamolo, sì. Il pelo è scorretto ed è la risposta al politicamente corretto imperante. Beh, adesso ci vuole tutti uguali, tutti puliti, uomini. Ma cosa c'è di politicamente corretto? Questo non è male, dice? Però questo discorso di Emma non è un discorso peregrino, cioè non è un discorso folle, non è un discorso del tutto sbagliato. Cioè lei dice: ma come no? No, lei dice: nella società moderna va di moda il, no, l'uomo anche glabro, la società tutta perfettina, pulita, l'immagine, no? E lei dice, e questo è il politicamente, il mainstream, diciamo. Invece lei incarna il politicamente scorretto, la ribellione, e se vogliamo, perché il pelo cresce dove non deve crescere, cresce un po' storto, cresce un po' riccio, salta fuori. Ma scusa, la tua mutanda, per esempio, il tuo costume, fanno massa davanti, cioè si vede proprio la sostanza, mamma o no? Mia, questo è importante, questo è molto mamma importante. Mia. Sì, direi un pochino sì. Cioè, si vede che tu hai il pelo perché oltre a fuoriuscire forse un po' di lato, questo non lo so, me lo devi dire tu, non so quanto sia folto in realtà. Ma poi Cruciani, il mast sono ascelle, ma pure quelle ce l'hai folte. Sì, quelle ma che c'è da vantarsi. E che c'è da vantarsi, sì, da dirlo, certo, alla radio? Ma c'è da vergognarsi! Ma c'è da vergognarsi! Abbiamo gusti diversi, infatti. Ma scusa, ma se quella. Se io voglio al dire una cosa, ma perché. Mio fidanzato piace così. Cioè, non ho capito, ma ti lecca anche le ascelle il tuo fidanzato? Ma quello. No. Quello no. Perché no. un po'. Perché non. Come fa uno a essere fidanzato con una donna come Emma, 51 anni, con le ascelle folte? E anche spesso col sudore che resta lì, la figa pelosissima. No, quello no. Beh, però come fa a non leccarti le ascelle? Non resta lì. Ho capito, ma le ascelle te le dovrebbe leccare, amica mia. No, mamma mia. Ciao Emma, ciao. Ciao Giuseppe, ciao. Allora, Giovanni da Verona, vai Giovanni, dimmi. Buonasera a tutti. Per la prima volta mi trovo d'accordo con Parenzo e secondo me la signora non aveva 51 anni, ma ha fatto almeno la guerra. No, ma che guerra? Ma quando? Ma assolutamente no. No, chiamavo per il discorso della caccia. Sempre molto fastidioso sentire questi ambienti animalisti un po' estremisti. Allora giudicarci nazisti, che insomma sembra che il cacciatore entri in bosco e spari tutto quello che si muove. Ma questi qua, quelli che chiamano nazisti i cacciatori, sono dei poveri pazzi, cioè sono dei poveri pazzi, dei criminali. Ma magari sono anche intelligenti, ma sono degli ipocriti e soprattutto non sono informati. Ma tu sei un cacciatore, pure te sei un cacciatore. Io sono un cacciatore, sì, grande sostenitore della caccia. Ma che bello, sei un cacciatore, ci mancherebbe pure che sei contro la caccia, che vuol dire? Cioè, è chiaro che sei un cacciatore a favore della caccia. Scusami un attimo, ma che cosa cacci tu? Ma anche i cervi, per esempio, ma anche animali a penne, se no vado anche in Africa magari a fare degli animali in Africa. Ma che animali cacci in Africa? Interessante come cosa. Ma dipende che cosa c'è di tipo molto la cosa che hai cacciato di più grosso, che c'è? Un animale ma delle antilopi. Le antilopi, lascia perdere elefanti, gli animali protetti che non vanno neanche sfiorati con lo sguardo. Appunto. Le antilopi. Ma le antilopi è come parlare di conigli e le lepri qua da noi, cioè sono due. Vabbè, non è che vai in Africa a cacciare antilopi, andrai in Africa a cacciare qualcos'altro, immagino, no? Beh, di antilopi ce ne sono migliaia di tipologie. Se tu immagini kudu con le corna belle arricciate sopra, sono dei trofei meravigliosi, e trovarli in mezzo alla natura della Namibia non è facile. Soprattutto non è che vai e spari. Ma perché dovete mettere al muro voi animalisti questo signore qui che va in Africa a fare dei safari, a cacciare regolarmente, porta dei quattrini in Africa? Che cazzo volete? Fermi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Vabbè, adesso vi mando a fare in culo. Te, Nullo, quel coglione di Cruciani, quel forcione di Forcialenzo, e tu c'è la combriccola Lungone coglione, Ramelli, ciucciami gli uccelli, e anche il coso, lo stupratore di Boston, Poli. Affanculo, ragazzi! Ma vaffanculo, a te chi cazzo sei? Ma non rompo un cazzo, va, vaffanculo, va! Non rompo un cazzo! Anna, ma non credo che questo si possa tradurre così. Anna, culona inchiavabile non si traduce in tedesco. Cruciani, il mio fidanzato inglese mi sta rompendo le palle. Ciao. I really want my girlfriend to shave her pubes. Ma, I love my radio. Bravo, bravo. E comunque da quando è entrata in vigore la legge Basaglia, personaggi strani in giro ce ne sono, eh. Uno di quelli è Max Felicitas. Cazzo, l'ho sentito due volte in trasmissione e a sentirlo urlare e parlare in quel modo me lo immagino davvero con la camicetta quella bianca, con i lacci dietro. Boh, se questo è il futuro. Rocco, Rocco, quanto ci manchi. Cruciani, qua Mario, abbiamo un problema, ovvero abbiamo questa povera ragazza che ha provato tantissime volte a squirtare, ma non riesce a squirtare. Quindi ti faccio raccontare da lei la sua esperienza. Ciao, allora praticamente io non riesco a squirtare, quindi ho cercato su Google come si fa. Ci ho provato in 2000 modi, mamma, tipo alzare la gamba, metterti in un modo, bla bla bla, aprirmi la vagina tipo come fosse non so che cosa, però Mare, non mi esce niente. Che cosa vuol dire? È un problema mio, sto sbagliando modo, che cosa devo fare? Mettiamole in contatto con le persone giuste, grazie. Giuse, l'autista del matrimonio di Parenzo deve essere il grillino palermitano, vedrai che risate. Allora, la ragazza che ha chiamato prima insieme all'amico, al fidanzato, non so chi, non, il problema è che se uno si sforza non arriva al risultato, bisogna che venga in maniera naturale. Però Davide, io direi di chiamare il sindaco di Modica per fare il punto della situazione della prostituta che ha infettato, forse, o comunque che ha incontrato dei clienti a Modica per 15 giorni e dopo è andata via, lasciando chissà che cosa. C'è una caccia per me assurda al puttaniere a Modica. Si chiama Ignazio Abate, chiamiamo, chiamiamo. Pronto? Sindaco? Sì? Sì, buonasera, Cruciani, Radio 24. Salve. Come andiamo, sindaco? Qua siamo. È un casino sta storia. Siamo abituati. Ma io voglio capire. Vabbè, è una lotta continua, una battaglia ogni giorno, figuriamoci. Però voglio dire una cosa: la questione è molto semplice. Secondo lei, quante persone di Modica sono state, hanno sfiorato, hanno toccato questa situazione? Ma non è il problema di Modica, il problema può essere anche del comprensorio. Beh, sì, non c'è dubbio. Essendo Modica la città di riferimento del comprensorio, e quindi può essere anche, tra virgolette, dei clienti, sì, non c'è dubbio, di Ispica, di Scicli, di Pozzallo, che sono tutte persone che si diversano. Ma per adesso, quante persone si sono presentate? Allora, guarda, noi abbiamo individuato noi come comando di polizia locale e ci ha messi in quarantena due. Ah, due? Però dalle due persone. Hai capito? Ma due persone, come avete fatto a identificare questi signori? Che sono... No, ma come avete fatto? Si sono presentati spontaneamente? No, alcuni le abbiamo individuate noi, ci siamo andati fino a casa. Per fortuna poi sono due persone che vivono da sole, quindi. Ma come avete fatto a scoprirlo? Scusi, adesso non è che voglio capire. Però, cioè, le telecamere, che cosa avete fatto? No, molto bene, molto. Perché c'è un problema che riguarda persone che obiettivamente, certo, sono degli abitué del giro. Ah, voi sapevate che erano degli abitué, dei signori puttanieri, detti puttanieri. No, va bene, però non vabbè, ma non c'è niente di strano. Io li ammiro questi qua, cioè li ammiro. C'era anche Cruciani? Avete fatto il test anche a Cruciani? Ma io a Modica non ci sono stato. Fatto il test, non ci sono stato io a Modica. No, noi la prima cosa, poi loro abbiamo passato subito i nominativi all'ASP, che l'ASP poi li cura direttamente loro e vanno a vedere loro su questo. Ma e sono poi positivi o negativi? Non si sa ancora. No, ancora non si sa. E poi ma quanti anni hanno questi signori? Non si ce può la dire. Privacy. Ah, ce la scusi un attimo, però voglio dire. Ma non sono anziani, questo è sicuro, non sono anziani. Ah, non sono anziani. E poi un'altra cosa, anche io ho saputo tramite il direttore generale dell'ASP che anche altri si sono presentati per fare i controlli. Ma è vero che alcuni dicono, chiedo per un amico, chiedo per un amico. Questa è la domanda più frequente. Questa è la domanda più frequente, che ti mandano un messaggio e ti chiedono che nome ha, che età aveva, perché lo sai, me l'ha detto un amico e magari mi fai sapere tu, perché l'amico non c'è il tuo numero di telefono. Però certo, voglio dire, lei ha detto andate a fare i test anche a costo di essere messi alle porte dalle mogli. Io posso capire quelli che dicono io sto bene. C'ha ragione. Cioè, sto bene. Ha ragione. Ma non è proprio per stare bene, se sei portatore sano. Ho capito, amico mio, però se uno sta bene, eccetera, mette a rischio il matrimonio per magari sta un po' riguardato dentro casa e non confessa. Al, no. al massimo infetta la moglie. Cioè, sta no, un po'... vabbè. No, il problema è questo, non è che deve andare a fare per forza il tampone diventa troppo pubblica la cosa. Anche puoi fare benissimo l'analisi del sangue, puoi dire benissimo che ti deve controllare il colesterolo o la glicemia e poi fai il siero all'interno di quello. Ho capito, poi, ma serologico non basta. Il medico curante che è condiscendente, quindi che è un amico che per la privacy non dice niente alla moglie. Ho capito, amico, però giustamente uno non è che vuole confessare al sindaco che è andato a prostitute, che è andato con questa no, prostituta. No, vabbè, ma lei... voglio che me lo racconti. Ma praticamente lei lo viene a sapere perché poi i nomi di sa. Quello sì. Questo io posso però capire. È giusto fare chiarezza della sua comunità, sì. È molto giusto. Io non pensavo che a Modica ci fossero tutte queste persone. Allora, lei ha detto tre, cioè un posto di puttanieri incredibile. Cioè... No, vabbè, non lo dica per favore. Perché... Ma no, ma per carità, va benissimo. Cioè... dico, sarà come tutti gli altri. Cioè... Poi quelle grandi lei dice sono in Sicilia, comunque. Vabbè, ma siamo un po' più chiusi, un popolo più chiuso rispetto al nord, sicuramente. Però posso dire che c'è anche là una. Cioè, tanto è impossibile. Questi qua saranno andati in giro, avranno ormai fatto quello che dovevano fare. Rintracciare tutti sarà impossibile. Tutti. Ma sarà impossibile. Amici miei puttanieri che siete all'ascolto, consegnatevi per carità, perché non voglio dire fottetevene, perché non andate è giusto fottere. Andate a costituirvi. Ma no, ma io però posso capire, se non lo fate, state bene, vi posso capire, vi posso comprendere, perché voi siete andati a fare una cosa, lei li condanna quelli che vanno a prostitute, sindaco? Sì, ma in ogni caso certo, però su questo diciamo state meno possibile a casa, se stai a casa e stai vicino ai familiari, in ogni caso fatti il controllo prima di stare a casa, perché sennò ci sono problemi anche per i familiari. Ma ormai sì, tanto ci sarà stato, sarà passato ci sono familiare. In realtà, ma sappiamo, è tempo di incubazione, vabbè, i prossimi 8 giorni saranno quelli decisivi. Cioè, che uno si deve isolare. Dove è covid free, perché è zero completamente dal 20 di marzo non abbiamo avuto più casi a Modica. Pensa che danno sarebbe. Bravo. Se esce un caso, poi Modica si è riempita di turisti. Se ci fosse un bordello a Modica e tutto questo non tutto questo problema non esisterebbe. Vabbè, ma lì entriamo in una sfera politica dove siamo a favore, siamo alla legalizzazione, non siamo a favore. Ma lei dice che non si deve andare a puttane e che andare no, a prostituire. Io dico una cosa, che io dico che l'amore non può avere un costo. Vabbè, ho capito, però sì, dico, l'amore non può avere un costo, però su questa situazione, anche se poi dall'altro si dice che il mestiere più antico del mondo, quindi ho capito, non è che lo possiamo eliminare, dunque regolarizziamolo. Sì. Vabbè, sì. Vabbè, anche su quello apriamo un dibattito politico. La caccia al contagiato. Vabbè, che dobbiamo fare? Arrivederci, grazie, arrivederci. Vai ragazzi, tipi da zanzara, vai. Tipi da zanzara. Paola da Milano, vai Paola, vai. Ciao Cruciani. Dimmi cara, dimmi. Ciao Parenzo. Vi volevo dire, buonasera. Io recentemente ho scoperto una cosa fantastica. Sì, cosa? Che riesco a squirtare con l'alluce del piede del mio partner. Beh, e chi se ne frega? Amica mia. È una sensazione eccezionale. Cosa vuol dire? Non pensavo, nel senso. Beh, che... Ma è una grande notizia. Frega, qui c'è, qui c'è, no, qui c'è no, notizia. Ma è fondamentale, perché veramente io consiglio a molte donne di provarlo, magari in un momento dove non si sa cosa fare. Ok, amore, ok, caro, un attimino sopra il tuo piede e vi assicuro che ci sono i risultati. Scusa, la posizione qual era, Paola? Esatta la posizione? La posizione, lui sdraiato e io sopra di lui con il piede. Dentro la figa, praticamente. Ovviamente. Ma stava già giocando con l'alluce a prescindere e poi è venuta la squirtata, oppure era tutto, diciamo, era un progetto che poi si è realizzato, ecco, questo era è interessante. Era un esperimento, io ho provato appunto a sedermici sopra piano piano. Cioè volevi, l'obiettivo era squirtare, era vedere se squirtavi. L'obiettivo era squirtare, devo dire che poi anche attraverso un massaggio clitorideo che ho fatto da sola ha funzionato. cioè allora c'era insieme il, l'alluce del tuo partner, sì, chiamiamolo così, esatto, e che un movimento di bacino, diciamo, e poi vabbè, e poi il tuo, e poi la, il dito, diciamo, il dito, esatto, che andava. Ecco, vorrei capire una cosa, l'alluce era pronunciato, oppure immagino di sì, perché comunque ci vuole un certo tipo di alluce, oppure era un alluce normalissimo con un'unghia curata, l'importante è che, ecco, che l'unghia non sia ovviamente lunga, però se no fa male, esatto, non c'è dubbio. Dopo quanti minuti barra secondi sei arrivata allo secondi? È quello, sconvolta, ma più di una volta. Ma in che senso più di una volta? Ah, più di una volta nella stessa giornata? Sì, sì, nel senso che ogni volta che si fa ottengo lo stesso risultato, è infatti molto piacevole averlo. Scusami un attimo, ovviamente il suo piede risulta completamente bagnato, naturalmente. No, ovviamente, non solo il piede, anche il materasso, le lenzuola, tutto quanto. Ma tu sei una che squirta molto, cioè spesso ha scoperto questa cosa, l'ha sperimentata, sì. Ci vuole un pochettino più di tempo, invece con questo metodo si raggiunge il risultato molto più in fretta. Dunque, il consiglio che possiamo dare a chi vuole provare è ovviamente che si può arrivare, si può fare. Si può fare, soprattutto giocate con il vostro corpo, non le solite posizioni tradizionali. Se vostro marito, compagno, tromba amico è stanco, voi vi mettete lì, lui sdraiato, e iniziate a cavalcare il piede. Io dico sempre, se vuoi avere lo squirtone, monta bene l'allucione. La novità di oggi è lo squirt con l'alluce del... Una novità. Questo vuol dire novità, che non è che ci vuole poi da parte chissà quale contributo da parte dell'uomo. No, assolutamente, non serve avere un membro di dimensioni eccezionali, basta saper giocare col proprio partner. Ecco, ma tu hai scoperto, adesso ogni volta che vai hai un rapporto sessuale, ogni volta che hai incontri sessuali, eccetera eccetera, squirti sempre praticamente. Sì. Ormai è un classico. Vabbè. Dipende se voglio, però sì, tendenzialmente sì. Ciao Paola, ti abbraccio, ciao. Tipi da zanzara. Bene, Kevin Belluno, provincia di Belluno, vai. Buonasera, ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, io volevo solo dirti, non riesco a capire qual è lo scandalo di questa cosa dei cervi, perché il piano di abbattimento dell'anno scorso prevedeva 2.900 rotti cervi. Sì. Quest'anno che ce ne sono 3.000 e qualcosa. Cioè tu dici anche l'anno scorso è la stessa cosa, non è successo nulla, nessuno scandalo. Ce n'erano 2.900. Ma l'hanno abbattuti poi o no? Li hanno ammazzati o no? Di solito non si arriva mai al numero completo, quindi Ma tu sei uno di quelli che va ad ammazzarli? Certo, io sono un cacciatore. Anche di cervi? Certo. Sì. Com'è che si ammazza? Prima l'ho chiesto anche a un altro. Com'è che si ammazza un cervo? Cioè, raccontami un po' in pochi secondi. Cioè, quanto tempo bisogna aspettare, eccetera? La caccia è molto varia. Può essere in una giornata, puoi stare là, non so, mezz'ora, e delle giornate ti tocca aspettare ore per niente. Ma sai che sensazione c'è quando abbatti un cervo? È un'emozione che non si può spiegare, dovresti provarlo. Ma spiegami, qual è l'emozione più grande? L'abbattimento del cervo, un momento in cui lo colpisce e vedi che va giù, qual è il momento più emozionante? È tutto l'insieme, cercarlo tutto l'anno, tu lo vedi mesi e mesi prima, sai dov'è, lo cerchi, e quando lo abbatti logicamente l'emozione è più grande. Allora ti metto a confronto uno di questi giorni con qualche animalista, Kevin, ti abbraccio, fermi tutti, certo, italiani! Certo. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. A te ti piace cazzo? Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.